salutare ragazzi, torniamo domani pomeriggio dalle 4 alle 6, tra un po' Fergal con South Side. Eccolo qua. Salutare su Radio Kiss Kiss Network. Sì, non si è capito nulla, comunque lo capiremo tra poco, lo sentiremo meglio. Salutiamo anche Robertino che ha curato la parte tecnica, tutti voi che ci avete inviato i vostri messaggi, tristi e non, e Annalita D'Ambrosio che ci ha informato per tutto il pomeriggio, lo farà anche tra, diciamo, 8 secondi. 8 secondi, esatto. Aspetta, salutiamo, buon lunedì a tutti, mi raccomando, fate i bravi, domani si ritorna sempre con Alex e con Ra. Ciao! Ciao! Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Sono le 18, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Hello everybody, you're very welcome to Southside. Questa nuova settimana, lunedì pomeriggio, iniziamo subito con un gruppo che saranno tra i protagonisti ad un concerto gratuito a Trafalgar Square a Londra domenica prossima. Dal loro nuovo album sono i REM with Imitation of Life. Si intitola Imitation of Life e viene dal nuovo album dei REM che si intitola Reveal, e praticamente Mike Mills è stato chiesto prima di registrarlo che voleva fare con questo album, e lui ha detto: vorrei fare un album buono come quello degli U2. E poi Bono degli U2 ha ricambiato il complimento, perché siccome è registrato a Dublino questo album, aveva detto, e lui era presente per alcuni della registrazione, ha detto: questo è proprio un capolavoro. E questo pezzo voglio dedicare a Brian, che dovrebbe essere a Londra al rientro di Cuba, ma si trova a Napoli in questo momento. Strano proprio. Fergal Kavanagh al microfono, Roberto Bottone ai controlli, e questi sono The Three Amigos. Southside. Southside. Outside, you're listening to Il Nuovo Pezzo di Ash, si intitola The Shining Lights, and facciamo una piccola pausa. Spot time. Giuliani, salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di salute e bellezza. La mia è una bellezza mediterranea. Anche la mia dieta è mediterranea. E quando esagero, c'è Dimagrasi Giuliani. Dimagrasi Giuliani è un integratore dietetico totalmente naturale che riduce l'assorbimento dei grassi ingeriti. Dimagrasi Giuliani lo trovi in bustina e in pratiche tavolette masticabili in farmacia. Dimagrasi Giuliani. Meno grassi assimilati, più successo alla tua dieta. Giuliani, siamo quelli dell'amaro. Tia. Ha mandato il fax! Devo ripetere sempre le stesse cose! Quanto zucchero ha messo nel caffè? Uno! Uno solo! Sempre le stesse cose! Sempre! Se non hai il coraggio di chiudergli la bocca, mandagli un messaggio. Blu ti regala 50 sms al mese, non cumulabili per i mesi di maggio, giugno e luglio, se ricarichi la tua SIM Blu On dal 10 al 30 aprile. Osa di più! Scrivi! E dove sono le puntine? Ah! Blu, il futuro che non c'era. Kiss. La più grande musica è solo su Rockstar. Il nuovo disco di Vasco Rossi, il ritorno di Bruce Springsteen, la svolta dei Depeche Mode, l'ironia degli Aerosmith, i Daft Punk e i JJ 72. Ancora su Rockstar, la crisi dei trentenni, secondo Stefano Accorsi e Fabio Volo. Rockstar ti aspetta in edicola. Kiss, Kiss. Rover 25 è arrivata ed è pronta a farti riscoprire emozioni forti. Vieni a provarla dal 28 gennaio al 5 febbraio. Parteciperai anche all'estrazione di 200 kit Go Wind e potrai vincere subito 1000 schede ricaricabili Wind con traffico prepagato. Rover 25. 3 e 5 porte. Benzina e turbo diesel. Da 22.950.000 lire. Presso tutti i concessionari Rover. Altmin Rick. Here we are again. Your love, and I'll give you the perfect love song with a divine Beatles bass line and a big old Beach Boys sound. I'll match you pound for pound like Perry waits in the final round. We'll hold on to each other so we don't. Just one kiss, I will whisk you away to an angel's often tread. We'll paint this planet red. We'll stumble back to our hotel bed. And we'll make love to each other till we're half dead. Maybe now you can see Comedy and Perfect Love Song dall'Irlanda del Nord, come gli Ash che abbiamo sentito prima delle pubblicità. Wow, che trasmissione che stiamo facendo per me oggi. Allora, il 23 aprile, che è successo in questo giorno nella musica? Allora, 1979, troviamo il numero uno in America, Heart of Glass dai Blondie. E praticamente quando è arrivato al numero uno, Andy Warhol ha deciso di fargli una grande festa per i Blondie a Studio 54 in New York, a tempi d'oro a New York. This is Blondie with Hearts of Glass, number one in 1979. Thank you. Southside. Victims with the Mumble Victims. Allora devo salutare a Laura che ci ha scritto sul nostro GSM box. Il numero è 0348-661-9461 e dice: ho sentito il nome Brian, puoi dirmi se è per caso è di New York? Avevo conosciuto un Brian a Minneapolis Rock Festival. E Laura, no, non è lo stesso Brian, mi sa. Comunque, grazie per il messaggio, grazie di aver sentito, ascoltato Southside on Radio Kiss Kiss Network. Coming along now, we've got Mr. DJ from Blackout, che è un bel hit in the UK. Gonna rock you, don't you let nobody stop you. On the dance floor, we come from. And the DJ spinning hardcore from the UK. And we don't play, gotta send props to the DJ. You know you've got to get on down. Yeah, Mr. DJ, play something hot. Something I can press up in a machine for you, let me black. Thank you. a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Che riconosciamo subito, that's David Byrne and Like Humans Do, e questo è un pezzo che mi è stato richiesto da Umberto. Grazie Umberto, spero che questo pezzo ti piace, e voglio salutare anche ad Irena, la socia di Luca, Pammy e socia, e anche Melania, grazie ai vostri messaggi, però purtroppo non posso accontentare vostre richieste adesso in questo momento. Allora, abbiamo aperto questo programma con un pezzo dai REM e adesso mi è arrivato proprio in questo momento le notizie che la chitarrista dai REM, cioè Peter Buck, è stato arrestato stamattina a Londra per aver aggredito due personale di un aereo mentre viaggiava da Seattle a Londra. Allora è stato rilasciato, sì, però non prima di essere condannato a due charges di assault, cioè aggressione, assault and battery, comunque pure ad essere ubriaco in un aircraft. Comunque fortunatamente può continuare a fare la promozione in tour per il nuovo disco che esce. Allora, questi sono i REM di cui parlavo, però stiamo per ascoltare un nuovo pezzo. Questi sono Daft Punk, dal loro album This Is Harder, Better, Faster, Stronger. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Power after power, work is ever. Recensione proprio belle per i Daft Punk, e chissà che tipo di macchina porterebbero loro. La microglamour deliziosa, è un piacere guidarla, così trendy negli interni, così in vista nei colori, così contenuta nei consumi. La microglamour è una sensazione da provare a lungo, e da oggi su tutte le micra il climatizzatore è incluso nel prezzo, se non avete un'auto da rottamare. Ma se il fresco non vi interessa e volete rottamare la vostra vecchia auto, la micra è vostra, tenetevi forte, do 16.200.000 lira. Che interni, che colori, che fresco, nuove micra glamour, chiedi a chi una micra ce l'ha già. Southside. Well, I think I hate you. Isn't this fun? You're gonna shoot. I think I'm done. What train did you step off of anyway? I really don't care. I'm the luckiest girl. Gonna lie with you, baby. God, there's nowhere else I can lay. I'm never talking to you again. I'll go join the Marines, and then I will peacefully sail away with some safe magazines. Did you hear what I say? You can't fall down the stairs two times the same way. Luckiest girl. From the moon, sensibility tells me that this is too soon. Oh, my bones are bare. I'm the luckiest girl. More than anything, yeah. In the room. Southside. The loudest, the most powerful. Southside, it's the Ark with It Takes a Fool to Remain Sane. E prima di quello, Chivalry with Bossa Nova, The Luckiest Girl. Torniamo dopo la pubblicità. Spot Time. Dalla ricerca Collister, i rivoluzionari auto abbronzanti ad effetto naturale. Vuoi una splendida abbronzatura tutto l'anno anche senza sole? Prova i nuovi auto abbronzanti Collister ad effetto naturale. Crema viso, crema corpo e il praticissimo spray. Perfetti anche per l'uomo. Auto abbronzanti Collister, in profumeria. Collister. Io guardo il risultato. Kiss, kiss. Ciao, vuoi vincere un'emozione bollente con me? Allora, giochiamo al gran quizzone della colazione. Dimmi, qual è il famoso frollino tutto tondo coi buchi? One, two, seven. Pensaci bene, è friabile, ha un gusto unico. One, two, seven. Mi dispiace, il tempo è scaduto. Gran Turchese. Gran Turchese, ce n'è uno. Come lui, non c'è nessuno. E vai. Kiss, kiss. Mia mamma dice sempre che la frutta fa bene. Chiara, ricordati di prendere la frutta. E poi dice che fa bene al mio corpo, alla mia pelle. Io sono d'accordo soprattutto su una cosa, che fa bene alle mie labbra e anche a quelle di Marco. Ma questo la mamma non lo sa. Nuovo Labello frutta: arancia, ciliegia, fragola e pesca. Dolce, colorato e profumato. Labello, labbra da baciare. Kiss, kiss. E tu? Quanto original sei? Io faccio rafting con la tavola da snowboard. Di più, vuoi diventare Maxi Original? Se non mi spacco le ossa. Vieni da McDonald's e gustati un bel Mac Menù Maxi. Ma... avrai un fantastico bicchiere Coca-Cola Originals con solo 2000 lire in più. Mitico, mi faccio una collezione e non mi bagno. Solo fino al 20 maggio, dopo torni in acqua. Oppure? Gli Originals sono tanti, cerca il catalogo e raccogli punti anche da McDonald's. Outwin Rick nei ristoranti che aderiscono fino ad esaurimento scorte. This is the Kiss Kiss Network. Southside. The loudest. The most powerful. Everyone has their own center to this universe, but it stops right there. And kids are trying to say it all, writing graffiti on the wall, but it stops right there. And we're all in the know from one television show, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about ourselves, and it stops right there. I'm lost looking in a sea of faces everywhere. Now where did she go? I need to find her quickly to nurse my insecurity. I'm lonely amongst these people, and I need to feel love, and I need to feel part of something. Is that strange? And why are they reluctant to talk? And why do they look alone when they walk? I see a face but no names. But despite my confusion, I've come to the conclusion that people need people. It's something I forget, but I've come to accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No. No way. No way. I'm on my own now. And doing fine. No. No. No way. No way. I'm on my own now. And doing fine. And anyone can give money to a good cause, but it stops right there. And anyone can sign a petition to change a law, but it stops right there. And we can believe in socialism or any theorism, but it stops right there. And take care of yourself, 'cause it's all about yourself, and it stops right there. But I'm not part of this, I'm not seeing what they're seeing. I'm staring at the ceiling to the world to see what is lying on the horizon. Maybe I'll see you again someday, girl. But despite my ordeal, I still feel that people need people. It's something we forget, but we must accept that people need people. And I'm alright, and I'm okay. I'm surviving well without you. And what did you want? And what did you expect? Did you want me to still talk about you? No. No way. No way. I'm on my own now. On my own now. And doing fine. And doing fine. And doing fine. No. No. No way. No way. I'm on my own now. My own now. And doing fine. Wow, grande questo pezzo, I'm Doing Fine, That's Day One. E loro vengono da Bristol e sono sulla stessa etichetta di Massive Attack, anzi, il proprio etichetta di Massive Attack. E il cantante, una volta stavo in radio e gli ascoltatori dovevano telefonare e quello doveva inventare un rap in onda. Bella questa cosa, ma che è successo per loro? Adesso siamo arrivati lunedì pomeriggio all'appuntamento del brano più bello che possiamo fare. Ascoltiamo un brano storico oggi, ascoltiamo e guardiamo la storia un po'. Sto parlando di un pezzo di David Bowie, questo si intitola Heroes, è stato registrato nel 1977 a Hanso Studios in Berlino e praticamente è stato registrato con 3 microfoni a vari volumi per prendere al meglio la voce di David Bowie e il ritmo è stato ispirato dal basso del I'm Waiting for the Man, il pezzo di Velvet Underground. E David Bowie finora diceva sempre che era ispirato da un bacio che aveva visto tra due giovani amanti sconosciuti, l'aveva visto sotto il muro di Berlino, però qualche mese fa ha ammesso che i due sconosciuti erano infatti il suo produttore Tony Visconti ed una backing singer sull'album. Siccome Visconti era sposato all'epoca, non potevo dire niente fino a pochi mesi fa. Well, grande David Bowie. E questo pezzo voglio dedicare ad Antonio. Grazie Antonio, David Bowie. Southside. Good enough. Ocean Spray, that's il nuovo singolo dai Manic Street Preachers e questo viene dal loro album che si intitola Know Your Enemy. Allora lo sto leggendo dalla pubblicità qua e quindi dovrei dire Manic Street Preachers Know Your Enemy. Intanto se avessi visto la pubblicità mi capiresti. Allora grazie al messaggio che mi ha scritto, non è firmato, ciao Fergal, Southside è fantastico ma devi ripetere assolutamente l'autore delle canzoni delle 18:40, era The Ark and this is the Muse. I've exposed your lies, baby. The underneath, no big surprise. Now it's time for changing and cleansing everything to forget your love. Plugin Baby e Muse saranno in concerto ad un venue near you very soon in Italia. Bello questo, ho visto il video ieri sera e devo dire è molto originale. Ok, di nuovo grazie del carinissimo messaggio che mi ha mandato ascoltatore o ascoltatrice non firmato. Il mio indirizzo email se mi volete scrivere è fergal@kisskissnetwork.it. Devo ringraziare Roberto Bottone per la sua collaborazione tecnica oggi. Devo ascoltare a tutti voi, a uno per uno. Vabbè, non ce la facciamo col tempo per avermi ascoltato questo pomeriggio. Vi do l'appuntamento domani alle ore 18. Arriva I Love America dopo le notizie. This is Fergal Kavanagh saying see you tomorrow. Southside. Per un'ora, Fergal ti proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, ancora un appuntamento con l'informazione.